Buonasera, benvenute, benvenuti alla nuova puntata di Cabaret Voltaire. E questa sera come ospite ho deciso di invitare Giuseppe Romano, che è l'artista dei quadri che vedete esposti questa sera in Exalge. E quindi passerei subito la parola alla star di questa sera e magari ti chiederei di parlare un po' di te, insomma, un po' di come ti sei approcciato all'arte. Ha una storia interessante, si può dire che non nasce artista, con questo intento diretto, diciamo. Va bene, grazie mille per la presentazione e grazie, va detto, anche per la curatela ottima della mostra da parte tua, da parte di Giorgio, ovviamente, che mi ha accompagnato in tutte le mostre finora, spero continuerà a farlo. Anche di Gio ci terrei a E anche di specificare, Gio, senza il che è quale dietro le niente quinte. sarebbe appeso questa sera. Esatto, la parte, diciamo. Né registrato. Benissimo. E quindi grazie mille. Per quanto riguarda me, allora è presto detto, tu hai appunto, hai giustamente fatto notare che non nasco artista, che in parte è vero, e in parte no, nel senso che in realtà, cioè, nasco e inizio a disegnare, come tutti in realtà, tutti da bambini disegniamo, con la differenza che alcuni continuano a farlo. Nel mio caso, credo di aver dovuto continuare a farlo perché sin dall'infanzia era stata un po' una necessità, nel senso che era per me il mezzo privilegiato di espressione e di sfogo e, come dire, quindi sin da bambino ho sempre disegnato e quindi effettivamente tu dici non nasco artista, è vero, da piccolino non volevo fare il pittore, volevo fare il fumettista al massimo, ma quello è un altro discorso. Quindi io ho sempre disegnato. Quello che c'è oggi, il Giuseppe Romano pittore, è un po' una cosa che è successiva e che viene dopo. E che, guarda caso, ha anche una collocazione temporale abbastanza precisa, che tutto sommato possiamo abbastanza tranquillamente collocare appunto in questo evento traumatico, che è un po', diciamo, la scaturigine e l'ispirazione della mostra, che si chiama Ex Trauma. Per un motivo preciso, quindi ex trauma, quindi movimento dal trauma che si origina dal trauma. Quindi, quando nel 2017, un lutto improvviso appunto sconvolge la mia vita, il primo pensiero che ho avuto è stato: ok, adesso devo diventare un grande artista. Sì, che mi sembra interessante proprio per sottolineare anche, diciamo, forse il valore dell'arte come processo terapeutico, no? Come. Esatto, molto importante, cioè è un po' un discorso che si può fare, diciamo, a posteriori, cioè non era proprio l'intenzionalità diretta, nel senso mi voglio curare dipingendo, era proprio, cioè, anzitutto l'intenzione di, come dire, dare un senso, cioè un po' una forma di contrattazione, di compromesso, voglio dare un senso a questa immensa sofferenza, nobilitandomi, diventando grande artista. E dopo pochi mesi l'aver subito questo grande lutto, con un documentario su Francis Bacon, dire ok, devo dipingere, perché Francis Bacon aveva questa cosa di mettersi tutto dentro le tele, mettere la propria sofferenza, la propria. Ora non sono Francis Bacon, evidentemente Beh, quasi però, ci stiamo potremmo dire che i arrivando. ritratti questa sera sono un po' becconiani. Ecco. Quindi nei fatti cosa è successo? Che, come dici tu, appunto, non sono artista. E per più motivi, il primo motivo è che non faccio l'artista come mestiere, ma neanche lontanamente. Cioè, banalmente perché io di mestiere adesso faccio il segretario, che è la cosa più noiosa in assoluto che possa fare, ma tuttavia dipingo in maniera assidua e, come dire, ininterrotta. E voglio dire, per qualche anno dopo questo trauma l'ho fatto esclusivamente, e quindi mi chiudevo in casa, vivevo di notte, lontano dagli amici, dalla socialità, per dipingere, per affinare questa tecnica in maniera cocciuta e ostinata e in maniera autodidatta, perché certo io quel corso di disegno a Brera l'ho anche frequentato, ma a Brera facevo beni culturali e mi sono iscritto a Brera soltanto perché dovevo laurearmi, quindi vabbè, facciamo beni culturali perché mi piace l'arte, ma non tanto per imparare a dipingere. Imparare a dipingere, ho sempre voluto imparare a farlo da solo, ci avrei messo un decimo del tempo forse facendo un corso, invece no, lo volevo fare da solo per raggiungere, non lo so, forse per orgoglio, oppure per raggiungere un mio stile che fosse il più possibile autonomo, indipendente, e come dici tu, cavolo, sì, in maniera terapeutica, perché alla fine mi sono reso conto appunto a posteriori che grazie a Dio mi sono chiuso in casa per 2 anni, lasciando l'università, lasciando le relazioni, lasciando tutto alle spalle per dipingere e basta, perché è stato il mio modo di andare avanti, di sopravvivere a quel trauma che mi ha sconvolto, che mi ha distrutto. E quindi voglio dire, il mio percorso è stato un po' questo, diciamo, essere artista sì, però anche adesso quando mi si presenta come artista, lui è l'artista di stasera, mi sento a disagio, uno perché voglio dire, come tutti gli artisti, non ho una grande stima di quello che faccio, e secondo perché, ok, su questo mi sento di dissentire perché gli artisti hanno un grande ego di solito, sei un po' un caso a parte. Va bene, si può dissentire, come no, però voglio dire, la cosa più importante è il fatto che non mi sento tanto artista, mi sento più pittore, ma soprattutto uno che dipinge, e che dipinge non tanto perché un giorno spera di finire sulle riviste o sulle gallerie o a New York, ma perché ho la necessità di farlo, ok? Non potrei fare altrimenti, in un certo senso, e la mia carriera professionale è molto rallentata sotto questo punto di vista, perché ho investito molto tempo su questo dipingere, questa necessità di dipingere, non avrei potuto fare altrimenti, in un certo senso. Che è bellissimo, perché penso anche che sia il vero potere dell'arte quando diventa proprio un mezzo di esprimere la propria creatività, no? E se in più è stato anche un processo di elaborazione di un grande dolore, penso che poi anche rispetto a quello che c'è qui stasera, che è molto colorato e fresco e vivo, sia poi appunto un bel modo di concludere un po' questo processo, no? Cioè, certo, di lasciare uscire fuori anche del bello da un momento critico. Assolutamente, questa cosa qui è un po' ciò che sin da ragazzino stava un po' sin dal liceo stava un po' alla base della mia poetica, quando suonavo, scrivevo, la mia logica era sempre tirare fuori il bello dal brutto, la catarsi, no, aristotelica, quindi c'è quel discorso lì proprio alla base di quello che faccio. Nel momento in cui appunto quell'evento traumatico, voglio dire, la cosa interessante di questa mostra è che si parte appunto, anche per dare una lettura, no, delle opere che ci sono stasera, si parte dal pastello, e quindi io che nel 17, io disegnatore che ho sempre disegnato, voglio diventare pittore, non lo faccio subito all'improvviso, ma lo faccio prendendo in mano il pastello, e quindi questa transizione dalla logica disegnativa lineare a una pittorica in cui modello con il colore, e quindi facendo questi pastelli che ci sono lì dietro, appunto, che sono ancora molto insicuri, molto nervosi anche, molto incerti, in cui io, che non so bene quali sono le logiche della volumetria, provo comunque a costruire con il colore, per poi passare l'anno successivo agli acrilici. L'acrilico, che è un medium molto, molto rozzo, molto inclemente, no? Ma che a maggior ragione, quindi, se è inclemente vuol dire che impari meglio a dipingere, perché devi essere più, insomma, più efficace, più preciso. Esatto. E con gli acrilici, soprattutto i primi piani, quelli che sono nella parete in fondo, c'è ancora moltissima di quella rabbia, ed è qui che si vede un po' ricalcare questo processo di elaborazione, di terapia, perché in questi acrilici c'è ancora un sacco di quella rabbia, e nello specifico, se uno va a guardare i lineamenti di queste persone che sono stravolti, ritratti di queste persone tutte di bella presenza, ma che vengono rovinate, in certo senso, è proprio per sfogare quella frustrazione e esercitare la mia vendetta nei confronti del creato, no? Per questo torto subito, per questo trauma. Ma tuttavia, anche guardando appunto i pezzi che poi sono esposti in verticale, c'è questo avvicinamento alla logica pittorica che poi mi porterà all'olio, e quindi sulla parete poi opposta, con gli oli, quindi si parla di 2020, anni successivi, appunto, l'essere finalmente arrivato a una logica più pacificata è uno stilema più, diciamo, preciso e definito, ok? Quindi in questo si può, diciamo, intuire e si riflette il percorso terapeutico in maniera molto trasparente, in un certo senso, cioè proprio sulla carta si vede, si intuisce già, come dire, superficialmente questo percorso qui, che poi arriva alle tele finali, che poi finali non sono perché ce ne sono anche di più recenti, ma in cui appunto la pacificazione in un certo senso non è definitiva, perché ne ho ancora da pacificarmi ovviamente, però è già un primo paletto, un primo traguardo a cui sono arrivato, del dirmi ok, adesso che dipingo a olio su tela mi sento pittore finalmente, quindi più che un punto di arrivo è un punto di partenza in un certo senso. E poi sono anche, devo dire, se devo scegliere un soggetto che vedo riprodotto in tutti gli stili, è la Bea Porzio. Certo, il gatto delle steppe, esatto, per essere più precisi. E che effettivamente, se si guarda il processo di evoluzione, no, appunto dal pastello all'acrilico all'olio, da che appunto, come dici tu, è più storpiata, in qualche modo più turbata, direi più tormentata, poi effettivamente nel quadro che c'è qui sul palco invece assume più delle forme realistiche, no? Forse un po', certo, più, quindi molto evidente. Non è però la tua prima mostra, vero? Cioè, mi interessa se ti va di analizzare un po' anche in questo senso il tuo processo di parlare al pubblico e quindi di presentarti, perché immagino che poi questo lavoro, questo processo sia nato in un modo molto intimo e personale, e poi magari successivamente sia venuto il desiderio di aprirsi a un pubblico e quindi di non rendere più quest'arte solo come una cosa tua, ma appunto che potesse comunicare anche con gli altri qualcosa, quindi anche magari raccontare in che modo le mostre che hai fatto ti hanno portato anche forse in questo senso a processare questo, questo percorso, e quindi magari anche analizzare il significato di fare Ex Trauma in Exalge qui stasera. Certo, effettivamente tu parli al plurale, però le mostre che ho fatto prima di questa sono due, perché come ricordo nel Dépliante sono un artista che rifugge, no, le esposizioni, le collaborazioni, no, molto. Però è interessante notare che la prima esposizione che ho fatto è stata immediatamente successiva al trauma in questione, quindi un mese dopo, io appunto due giorni dopo questo lutto terribile sono stato preso appunto per la collottola dalla Giorgia, per l'appunto, che mi ha detto facciamo questa maledetta mostra, no, con questa esposizione di moltissimi disegni, moltissimi dei disegni che facevo assiduamente in brera anziché ascoltare e prendere appunti, facevo questi disegni di animali, no? Perché già allora era molto forte in me questa sensibilità dell'esprimermi attraverso queste figure animali, questi ratti, queste gatte, insomma, e questi animali guida delle persone che mi circondavano, riempiendo questi fogli in maniera molto grezza, molto. E appunto dopo questo, immediatamente successivamente a questo trauma, riempire i muri di questa location con questi, si possono chiamare scarabocchi in un certo senso, però già allora si intuisce il fatto che la mia storia espositiva e quindi il mio venire fuori come artista, il mio coming out in un certo senso come artista, è profondamente legato a questa dimensione di dolore profondo, perché altrimenti me ne sarei stato ben felice dentro appunto il mio stanzino con le mie carte ben segrete. È stato proprio dopo questa immensa sofferenza che ho sentito la necessità di venire fuori e di farlo uscire, perché era troppo grande per starsene dentro e segreta, e quindi lì è cominciata la mia storia espositiva. E l'altra mostra che ho fatto in realtà è stata più o meno questa che stiamo facendo stasera, perché io l'anno scorso l'ho inaugurata facendo una serata alla Fabbrica del Vapore, sempre come Ex Trauma, con molti dei pezzi che ci sono stasera, però, come dire, stasera ce ne sono anche di diversi, il percorso intanto è proseguito, è molto più consapevole dal punto di vista, diciamo, psicologico, è interessante rifarla anche per quello, non è una replica, è sicuramente una come dire, uno sviluppo, quindi è interessante farlo, ma comunque sia è sempre rimasto legatissimo a questo filone, diciamo, di elaborazione del dolore. E il fatto che tra la mostra del 2017 e del 2024 ci sono passati 7 anni in cui, diciamo, mi sono sognato di esporre, sono rimasto chiuso nel mio stanzino per 7 anni, poi vabbè, certo, reintroducendomi nel mondo, nella società, nell'università, ma comunque sì, artisticamente rinchiuso nel mio stanzino senza fare collaborazioni, senza mettermi in mostra, perché non era quello, non era la carriera artistica che inseguivo, ma semplicemente il dipingere e il continuare a farlo. È stata un po' una conseguenza poi naturale che a un certo punto con questo corpus di ritratti, soprattutto che faccio anche altro, ma c'era comunque questo ritorno continuo al ritratto e questo ritorno continuo a queste figure femminili della mia vita su cui mi ossessionavo e ritornavo continuamente, che poi si è proposto proprio come corpus che andava esposto e in un certo senso un discorso che andava chiuso, tra virgolette, perché chiuso non è, ma insomma individuato in un percorso che ha un inizio nel 17 e non una fine, ma insomma un paletto adesso nel 24-25. E c'è un motivo specifico per cui hai scelto questo posto? Allora, in che senso questa domanda? Cioè, perché diciamo che quello che penso è che Exalge appunto non è una galleria, e il fatto che anche tu abbia scelto di esporre in uno spazio non prettamente legato al mondo dell'arte sia interessante, no? Cioè parla a un pubblico un po' più variegato, che quindi potrebbe anche leggere le tue opere d'arte in una maniera diversa, forse anche un po' più genuina, esatto, no? Un po' più emotiva, invece che come dire, prettamente per un discorso di... Il fatto, esatto, come dici tu, il fatto che io rifugga, come ho detto prima, le gallerie, queste realtà, non so, le fiere artistiche, no? È proprio perché io mi voglio allontanare da tutto quel mondo. Ma sai quante volte mi hanno detto, ma perché non fai questo e quello, sai quanto venderesti, quanto esploderesti? Non è che non mi interessa, ok? Sarebbe anche bello, sarebbe un bel riscontro, ma... come dire, più che in una galleria, una logica, diciamo, come dire, più commerciale, competitiva anche, e commerciale, no? A me interessa proprio questa dimensione che dici tu, una realtà vissuta e che, per inciso, è anche interessante, una realtà recuperata da persone giovani, ma in cui, come dire, la gente viene con un altro tipo di aspettativa, non certo con quella logica con cui uno va in galleria a perseguire, esatto, no? L'artista emergente che va, no, un luogo in cui, un luogo terzo in certo senso da questo punto di vista, in cui è dato, uno si può approcciare a questa creatività e a questo messaggio artistico in maniera, diciamo, più, in maniera migliore, nel senso più benefica, più neutrale, si può approcciare più serenamente a questo messaggio artistico che non vuole vendersi, non vuole vendersi, vuole esporsi e vuole tentare di parlare e di toccare, perché non voglio vendermi, non voglio vendere, non voglio esplodere, non voglio, voglio esprimermi. Ok, posso anche farlo restando segretamente nel mio stanzino finché muoio e va benissimo, ma se riesco a esprimermi ad altre persone e a toccarle, a coinvolgerle, a interloquire e a maturare e generare qualcosa di ulteriore, meglio ancora, insomma. Dicevi giustamente prima che appunto il tema comunque delle tue opere è il ritratto, e prevalentemente direi ritratti femminili. Mm-hmm. Non so se c'è appunto una motivazione specifica per cui questo è un po' il soggetto che prediligi. E se c'è magari anche una storia legata alle persone, le donne che hai scelto di ritrarre. Certamente, voglio dire, ci sono diversi livelli di risposta a questa domanda. Cioè, un livello più semplice forse, ma più che semplice più facilone. Perché, voglio dire, è facile dire che il mio rivolgermi a delle figure femminili sia una ricerca di surrogato materno, È facile dirlo, e non vuol dire che non sia vero il fatto che sia facile. È vero, ed è vero che comunque sia per il mio trascorso e per la mia crescita ho sempre avuto, come dire, molta più sintonia e facilità e conforto nei confronti e nel rapporto con le figure femminili. È vero, però voglio dire, è una spiegazione un po' facilona perché in realtà è posteriore. La verità è che non è programmatico. Io mi sento e ho la necessità di ritrarre soltanto queste figure e di rifugiarmi in queste figure. E il motivo sarebbe interessante capire qual è in profondità. Fatto sta che, voglio dire, per diversi motivi, se sono profonde amicizie, se sono amori, se sono ammirazioni, io ho questa necessità di rifugiarmi a lungo in queste conversazioni con queste figure femminili. E voglio dire, una cosa che è interessante secondo me, e che è interessante perché l'ho realizzata proprio negli ultimi mesi, nelle ultime settimane, è che con queste figure femminili, io tutto sommato, con cui io passo ore e ore appunto chiuso nel mio stanzino ad ammirarle e a ritrarle con lo stesso approccio che avrebbe un madonnaro, ok? È proprio così, è proprio la figura corretta, perché c'è anche una venerazione in un certo senso, no? Una grande, profonda ammirazione, ma poi con il riscontro con la realtà mi rendo conto che, voglio dire, con la persona vera che io ritraggo è capacissimo che io mi spazientisco, mi innervosisco, voglio tornare nel mio stanzino in tempi brevi. E quindi mi sto rendendo conto di questa cosa, che sono tutte figure che io idealizzo profondamente nel momento in cui dipingo. E quindi cosa vuol dire in questa idealizzazione? Probabilmente che io ricerco una forma di rassicurazione, ovvero una forma di dialogo con queste persone in cui io so di poter mantenere il controllo, perché come tutti noi, e io forse più della media, abbiamo una fortissima necessità di controllo nella vita. E quando una persona subisce un trauma importante, come tutti abbiamo subito nella vita, sappiamo benissimo che questa sensazione di perdita del controllo tragica ci catapulta ulteriormente, no, in questa necessità di controllo. E quindi, voglio dire, ecco spiegata forse questo costante ritorno e queste ore e ore e ore spese in queste conversazioni unilaterali con queste figure idealizzate, perché magari poi di persona, certo, mi fa piacere vederle, parlarci, ho un grande trasporto, un grande affetto, ma tutto sommato forse è più di quello che ho bisogno, di quel dialogo idealizzato, sicuro, controllato, in cui nel peggiore dei casi viene un brutto dipinto. Come dire, è una circostanza, no, di rischio molto controllato. Nel migliore dei casi viene un bel dipinto che, voglio dire, è un gran risultato. È molto diverso nella vita reale. Il rischio è molto più grande, non puoi controllare quello che l'altra persona fa, prova nei tuoi confronti, sceglie. E quindi, voglio dire, non so quanto ciò risponda alla tua domanda, forse è un po' divagato, no, ma tutto sommato è questo. È un rivolgersi molto spontaneo alle figure femminili. Di amici maschi ne ho, per carità, ma mai mi sono sognato di dipingerli per qualche motivo, non so. Siamo perché più belle per siete questo. Anche decisamente più belle, quindi nel senso forse c'è anche quell'aspetto di, insomma, pittoricamente una sintonia maggiore, però se devo essere sincero la mia risposta è questa: c'è un'attrazione spontanea al soggetto e tutto sommato anche una forma, non so se malsana, ma comunque sia di rifugio idealizzato in questa figura che è più Madonna che persona vera. È un po' una raccolta di Madonne questa mostra, diciamo, senza voler elevare necessariamente per, insomma, lusingare le persone di tratta, perché non mi interessa quello, però l'approccio è un po' quello del madonnaro che fa icone perché si deve rifugiare in questa dimensione eterea, soprannaturale, quanto quello che vuoi, per trovare un po' pacificazione, tregua in una realtà che poi nei fatti è traumatica e sconvolgente. E è interessante anche perché, appunto, nonostante siano ritratti di persone viventi, riconoscibili, hai deciso di chiamare i quadri con dei nomi di animali che tu dici essere animali guida. Quindi non so se vuoi un po' raccontare cosa significa, perché magari fare degli esempi legati alle scelte che hai fatto. Certo, perché il discorso di animali guida in realtà è un ragionamento che mi accompagna da molto tempo, da almeno una decina d'anni, e che è precedente al trauma e che, come dire, già da molti anni significava che, come dire, dipendeva dal fatto che io con le relazioni umane ho le mie difficoltà, come tutti, e mi facilitava molto approcciarmi alle persone indagandone e capendone l'animale guida, per capirne bene i comportamenti nei miei confronti. Quindi io, che mi sono ritenuto ratto per un sacco di tempo, come dire, avrò un certo tipo di rapporto con un felino piuttosto che con un uccello rapace, e quindi in base alla personalità, al comportamento di una persona, mi dico: ok, quello è un gatto, quello è un barbagianni, e quindi mi spiego i suoi comportamenti e il suo rapporto nei miei confronti. Quindi questo è un po', come dire, la para mia, il costrutto mentale un po' malaticcio mio con cui ho vissuto negli ultimi anni. E nel caso di questa mostra, appunto, io ho scelto di esporre queste opere con questi titoli che, appunto, come dici tu, sono rispettivamente l'animale guida di ciascuno, che dal mio punto di vista è una scelta naturale, non so se obbligata, ma molto naturale, perché esporre questi dipinti con il nome di Luisella, Silvana e Camilla dice poco della persona ritratta, di Camilla e di Luisella, quanto invece dice più l'animale guida, perché già qualcosa si intuisce di quella persona. E nota bene, molto spesso, non sempre, spesso interpello e chiedo: qual è il tuo animale guida? E mi fido della risposta, anche perché magari ti conosco poco e quindi la do per... A volte invece faccio di testa mia e dico: no, io ti vedo come gatto delle steppe. Il gatto delle steppe... Ho paura di sapere qual è il mio animale guida. Lo scopriremo insieme. Il gatto delle steppe mi detesta, perché detesta il gatto delle steppe come animale, e quindi, come dire, si mette le mani tra i capelli quando vede ripetuto per volte e volte gatto delle steppe. Ma per me è un gatto delle steppe, perché la vedo come gatto delle steppe. Ma cos'è il gatto delle steppe? Sarebbe il Manul. Cioè, che carattere ha il gatto delle steppe? È un gatto cui non si devono rompere i coglioni, cioè un gatto un po', insomma, con la faccia, come dire, che ne ha già piene le palle di te. Favoloso. Che sta molto sulle sue, che se ne sta al freddo lì tutto rincagnato con i suoi gattini e si fa gli affari suoi, e che, voglio dire, non è che una persona sia così nella vita. La persona che io definisco gatto delle steppe poi è molto sociale, molto socievole, ma io la percepisco con quel, certo, okay, con quell'approccio lì e quelle vibes lì nei miei confronti. E quindi, voglio dire, è un discorso molto egoistico spesso, come dire, secondo la mia visione malata o malaticcia, ti vedo come gatto delle steppe piuttosto che ti vedo come scoiattolo volante o come beluga. Sono tutte suggestioni mie che poi non corrispondono alla realtà o al vero spirito animale. Per quello uno deve andare nel deserto messicano a farsi di funghetti per scoprirlo veramente. Ed è il next step di questa mostra. Esatto, l'anno prossimo lo facciamo nel Yucatan. Esatto, tutti fatti di funghetti. Benissimo. E quindi come mi vedi, come mi percepisci? Allora, abbiamo già accennato questo fatto, che avessi questa sensazione di castorino, diciamo, lanciato e pragmatico. Zappa, ma forse sarebbe molto geloso. Sono influenzato dal fatto che, rispetto al mio essere appunto mellifluo e cazzone, insomma, poco disciplinato, tu invece hai tirato su una mostra così in tempo zero, come se nulla fosse, come se ti lavassi i denti. Quindi ti vedo proprio come, appunto, un castoro che va lì, tira su la diga e dai su, stai fermo, tira su il kill, che siamo qua, che dobbiamo lavorare. Quindi, che è un complimento castorona, per me. Castorona, quindi, perfetto. Una castorona. Sarà il mio nuovo nickname. Ottimo. no, l'ultimo dettaglio poi dei quadri è che alcuni hanno un QR code a cui è legato invece un pezzo musicale. Sì. E se vuoi raccontare un po' il motivo dietro questa scelta, anche se perché solo alcuni. Guarda, è una scelta che ci tenevo molto a implementare, perché allora la motivazione semplice è che io su questi pezzi, su molti, ma su alcuni in particolare, e sono quelli appunto a cui è associato appunto questo QR code che ti collega poi alla canzone di Spotify, no, banalmente, io quando li vedo ho proprio in mente una canzone, un suono collegato a questi, e quindi banalmente... Beh, collegato quindi anche alla... cioè, come dire, un discorso che si unisce anche alla persona, all'immane guida, o proprio invece più a un discorso stilistico dell'arte? È abbastanza variabile, però nella maggioranza dei casi si può dire che sia abbastanza legato alla persona. In alcuni casi in cui magari la persona la conosco meno, invece è più stilistico, è più proprio di suono, ok? Però nella gran parte dei casi c'è proprio anche un legame stretto, significativo con la persona in questione. Quindi c'è questo primo livello, banale forse, in cui, come dire, volevo dare la possibilità a una persona che magari fosse colpita da un disegno, da un dipinto in particolare, di dire, di fruirla con questo livello ulteriore, ok? Che è, come dire, è una cosa bella che incoraggio, quella di implementare, di, come dire, unire le diverse forme artistiche, ma soprattutto, ed è un ragionamento che è posteriore, di cui mi sono reso conto dopo, è interessante dal mio punto di vista implementare questa cosa, ci tenevo, perché è nella musica in realtà che io personalmente riesco a avere una, come dire, un'emotività vera, perché qual è il nostro obiettivo nella vita? Essere, vivere meno dentro la testa, e quindi vivere meno razionalmente e vivere più a livello emotivo, emozionale, che è una cosa che io sono terribile a fare. Io non riesco a vivere appieno le mie emozioni e sono molto intellettuale, razionale, quindi questo mi crea dei gravi disagi nella vita, ok? Ma cosa succede? Che quando scrivo un sacco, quando dipingo, anche perché ci metto ore e ore, quindi ha voglia a lavorare razionalmente, ok? Quando ascolto la musica, invece no, riesco a essere emotivo, riesco addirittura a commuovermi, ma senza spiegarmi il perché. Proprio il fatto di vivere la canzone in quel momento, e il fatto che io, sì, sono musicista, ma sono un pessimo musicista, e quindi non riesco a interpretare il giro di accordi, il giro armonico, no, devo stare dentro quel momento e vivere la canzone. Questo, diciamo, era un po' un modo anche per me di unire a questi dipinti, disegni che sono molto intellettuali, molto razionalisti, molto riflettuti, anche una dimensione più emotiva, del dire, certo, c'è questa raffigurazione pittorica che è molto intellettualistica, in cui c'è un'astrazione fortissima, una idealizzazione e anche un distacco emotivo forte. Volevo associare anche questa dimensione qua, c'è anche un suono, e in questo suono c'è forse più della mia emotività nei confronti di quella persona, di quel tema e di quel rapporto umano, di quanto non riuscissi a esprimere pittoricamente. E quindi ci tenevo tanto a dare a chi volesse questa possibilità di avere, diciamo, un dato in più emotivamente parlando. Bellissimo, infatti, anche che ci sia tutta questa unione di forme d'arte diversa. E no, niente, l'ultima domanda che ho è se vuoi raccontare se hai dei futuri progetti, perché a dire la verità quando ci siamo conosciuti non era veramente questo il progetto, no, nuovo che volevi presentare, era legato più a un altro tema, e poi discutendone insieme abbiamo capito che avesse più senso in questo luogo fare questo tipo di esposizione, ma so da altre persone, altri uccellini, che ci sono dei progetti in vista. Sì. Perché allora, diciamo, questo, allora, come dici tu, sono arrivato qui in Exalge facendoti vedere altri progetti, poi, come dire, come hai detto tu, la location influisce un po' su, no, quello che poi vai a fare artisticamente, quindi per questa location qua il discorso di ritratti con questo sviluppo e rielaborazione rispetto all'anno scorso si sposava perfettamente. E meno si sposava appunto il filone pittorico, non successivo perché è parallelo, però insomma quello che ho elaborato, sì, diciamo a fianco, che è quello di questi soggetti sacri, no? Perché quello è un altro filone di cui, ok, dovremmo parlare per un'altra mezz'ora e penso che ci lancerebbero i mattoni dal pubblico. Però voglio dire, io insieme a questi ritratti non facevo certo solo questi, facevo anche altre cose, tra cui appunto questi disegni e dipinti molto più elaborati, molto più stilizzati, che sono questi soggetti sacri, che però, attenzione, non sono certo le Madonne del Bellini o del Botticelli, ma sono invece appunto figure più, immagini più espressive, quasi grottesche, in cui mi ispiro più che ai quattrocenteschi di Firenze, ai tedeschi del Novecento, no? A Otto Dix, piuttosto che agli espressionisti. E quindi sono anche pezzi che ritengo più interessanti, più accattivanti, insomma, e che appunto, hai fatto lo spoiler, adesso stiamo lavorando per esporre in una mostra che è intitolata Iconoclasmus, cominciando a esporla a Roma, sperando poi di, insomma, portarla in altre città, tra cui ovviamente Milano. E come dire, questi soggetti qua, certo, rispondono anche a tutto a quella spiritualità mia personale, che appunto viene sì da anni di scuola cattolica e di famiglia cattolicissima, ma che poi, voglio dire, ha anche fatto il passaggio del guado ed è passata all'altra sponda, e quindi nel senso c'è un po' questa ambivalenza, questi soggetti dissacrati, ma non dissacranti, non è che faccio appunto cose che vogliono essere provocatorie necessariamente, ma comunque molto forti, molto crude. E quindi certo vi invito a restare sintonizzati per vedere quali sono gli sviluppi di questa cosa qui. Ma comunque sia, adesso qual è il mio percorso dopo questa mostra è tutto da vedere, perché anche soltanto rifacendo questa mostra, è importante secondo me farlo notare, era importante rifarla, perché rispetto all'anno scorso mi sento in un momento diciamo di ulteriore chiusura, perché è stato adesso che mi sono reso conto di questa forte idealizzazione di queste figure, quindi di questa mia necessità di distaccarmi da questa logica e di proseguire, non tanto di eliminarla questa madonizzazione, ma di integrarla con la realtà, tant'è che uno degli ultimi pezzi che è sopra di te, perché ha lo sguardo cancellato? Perché mentre lo facevo, lasciando stare la storia personale che c'è dietro, ma mi sono reso conto di quanto terribilmente idealizzassi questa persona e di quanto fosse ingiusto e disonesto nei suoi confronti, e quindi andasse cancellata, come dire, no, attenzione, il quadro ok è venuto bene, però attenzione, questa persona non esiste, non è mai esistita, e l'ho dovuta cancellare. Ma poi guardandomi indietro mi sono reso conto, come dicevo prima, di averle idealizzate tutte quante. Certo, non potevo mettermi a cancellarle tutte, se no, ecco. Però, in un certo senso, sì, mi sono detto, devo proseguire. Quindi ritratti, probabilmente continuerò a farne qualcuno, perché, dicevo prima, è una necessità. Però al tempo stesso mi sono detto, bene, proviamo qualcos'altro. Proviamo a proseguire. E c'è qualche ritratto a cui sei particolarmente legato, di cui vuoi raccontare la storia o... Certamente, un insight. Ce n'è uno che evidentemente è uno a cui sono più legato degli altri, che è quello che ho scelto anche come locandina, che sarebbe appunto quello del Gatto delle Steppe del 2018, mi sembra, e in acrilico, che io ho intitolato, è uno dei pochi che ha un titolo narrativo, non solo come animale, io ho intitolato Custode del Dolore. E appunto è in una posizione in realtà intermedia cronologicamente, perché lì non avevo neanche cominciato a dipingere a olio, è chiaro che io agli oli sono affezionato, ma quello rimane uno dei miei preferiti perché è comunque uno dei più efficaci, dei più malinconici, e appunto è ritratta questa gatta delle steppe in questo atteggiamento molto particolare in cui, certo, la deformazione, ok, me la sto lasciando alle spalle per arrivare a uno stile che è più vicino a quello dell'olio e più pittorico, più figurativo. Rimane certamente che queste grandi dita allungate, no? Insomma, c'è comunque un deformare, ma soprattutto tra queste grandi dita tiene in mano un uovo, ok? E in questo c'è un po' uno sviluppo della logica pittorica, il fatto che non sia più un primo piano e basta, ma sia in uno spazio definito, una stanza che stia interagendo con un oggetto, mentre normalmente non lo fanno quasi mai, lo fa lì con l'uovo, lo fa qua sopra con la melograna. E perché ci sono affezionato e perché lo ritengo riuscito? Perché questa custode del dolore e questa persona per cui io provo un grande trasporto, un grande affetto e io di cui ho grande stima e di cui stimo molto la capacità di soffrire, anche se magari non lo fa sempre nel migliore dei modi, ma lo fa con grande intensità, ed è una cosa che io stimo molto, tiene in mano quest'uovo e lo guarda con sguardo profondamente malinconico e con questi lineamenti che appunto sono quasi invecchiati, ecco. E in realtà è una citazione abbastanza trasparente e diretta del fatto che vuole essere un po' una Madonna con bambino, il fatto che tenga in mano un uovo e quindi qualcosa che deve nascere, no? E il fatto che sia Madonna con bambino mi fa sempre tornare all'idea di Madonna con bambino quattrocentesca, in cui la Madonna che tiene il bambino in un grembo lo guarda sempre con sguardo malinconico, perché la Madonna in quel caso prefigura nel bambino la passione, la morte terribile che dovrà vivere, e quindi per esteso questa figura con l'uovo in mano guarda l'uovo, che ha tutte le simbologie ovviamente enormi del caso, come simbolo di scaturigine della vita, e quindi come se nella vita stessa lei intuisse la condanna al dolore, la condanna a morte che ogni vita si porta appresso. E quindi mi sembrava appunto un po' un sunto, una sintesi molto efficace di quello che è un po' la mia filosofia, che lo era molto fortemente in quel momento, chiaramente, nella sofferenza in cui ero immerso, ma che lo rimane. E infatti ancora adesso, dopo molti anni, dopo che il mio percorso artistico è ben proseguito, rimane locandina, rimane pezzo forte in un certo senso. Grazie. Grazie a te. C'è qualcuno che vuole fare delle domande dal pubblico? No. Va bene, meglio. No, allora basta, direi che possiamo goderci la fine di questa serata. Grazie mille Giuseppe. Grazie a te, grazie a tutti. E grazie a tutti voi di essere qui, grazie Exalge. E ci vediamo il 7 di giugno. Con, tra l'altro, okay, la prossima puntata sarà con un collezionista d'arte. Molto bene. Che investe in giovani emergenti. Non più così giovane, ancora da emergere. No, giovani, però. Giovani, giovani. Niente, quindi grazie mille. E grazie a te. Spero che riuscirete tutte anche a tornare a vedere questa bella mostra. Va benissimo, grazie mille.